Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho un negozio nel quartiere cinese di Prato. Se mi venite a trovare, vi porto a vedere come trattano gli alimenti, i ristoranti e i mini market e vedrete che chi è andato non ci metterà più piede. Maurizio. Mio cognato ha ricevuto in regalo un bel frullatore made in Cina. Non lo ha nemmeno aperto, era intenzionato a depositarlo nel più vicino cassonetto. Subito ho pensato che scherzasse, ma quando ho capito che faceva sul serio, me lo sono fatto regalare. Arrivato a casa con il pacco dono, mia moglie mi ha impedito di usarlo, perché è fatto in Cina e sa di plastica. Lo destinerò alla prossima pesca di beneficenza della parrocchia, sperando che almeno loro lo apprezzino. Però a me sembrano tutti matti. Oppure mi è sfuggito qualche passaggio e sono io che non capisco nulla. Francesco, provincia di Verona. Lo stesso allarmismo per tutelare la salute dei cittadini è stato forse usato nei confronti degli scandali degli allevamenti di bufale campane? È stato forse consigliato di non frequentare le pizzerie dove si usa la mozzarella di bufala? Dario. Sono un ragazzo 34enne di origine cinese. Vivo in Italia da circa 20 anni e attualmente gestisco un ristorante cinese a Rimini, tramandato da mio padre, che sta andando in pensione. Ho appreso che il ministro dell'agricoltura e il sottosegretario della salute hanno deciso che i ristoranti cinesi sono dei posti da evitare, che mettiamo chissà che cosa nelle nostre salse, zuppe, biscotti e torte. Inoltre anche il presidente dello Slow Food invita a non frequentare i nostri locali. Vorrei, con tanta amarezza, fornire alcuni chiarimenti. I ristoranti cinesi fanno parte della categoria della ristorazione, pur nella loro diversità. Fanno parte integrante del territorio e contribuiscono, nel loro piccolo, alla crescita dell'economia locale. L'approvvigionamento delle materie prime in un ristorante cinese viene suddiviso in mercato ortofrutticolo e grande distribuzione per ristorazione, per quanto riguarda verdura, carne, pesci, uova, olio, gelati, eccetera. I prodotti cinesi si comprano da importatori autorizzati e legali in Italia. L'utilizzo di latte nella cucina cinese è veramente irrisorio e, nel mio caso, si limita al latte fritto o caramellato. Negli ultimi anni la SARS, l'aviaria ed episodi di gestori disonesti hanno causato danni rilevanti all'immagine e all'economia dei ristoranti cinesi. Vorrei che d'ora in poi, nei ristoranti cinesi come categoria, non venissimo più tirati in ballo per ogni misfatto che fornisce un'immagine negativa della nostra patria e al tempo stesso ci priva dei risultati del nostro lavoro, indipendentemente dalla nostra volontà o bravura. Distinti saluti, Hu Xujian. Ho 59 anni, mi piace e seguo la politica, ma credo che in vita mia una cosa come quella detta da Veltroni, che ha dichiarato di aver salvato l'Italia, non l'ho mai sentita da nessuno. A tutto c'è un limite e il buon Veltroni lo ha superato in modo indecente. Lorenzo. Sono un elettore di sinistra e vorrei intervenire su Veltroni e la sua esigenza di comunicare un suo intervento attivo nella risoluzione del caso Alitalia. Ci sarebbe tanto da dire, partendo dalla presunzione di ignoranza che Veltroni attribuisce al suo elettorato nel leggere la notizia e apprezzare gli sforzi che ha fatto il Partito Democratico. Chiarito un riconoscimento di massima al suo impegno e al suo operato, entra in gioco un'altra riflessione. Cosa diavolo avrà da vantarsi? L'operazione Alitalia andava portata a termine. Tanto c'era rimasto e tanto andava portato a casa, ma l'operazione in sé e per sé non ha nulla di nobile. È un'operazione che preserva l'italianità. Ripeto, l'italianità. L'italianità di che? Tutta l'operazione determina e conferma l'italianità di un'operazione imprenditoriale che, a quanto pare, dopo il saccheggio speculativo, con clausole di salvaguardi su ciò che sarà e modifiche a qualsiasi regola di mercato e magari qualche fideiussione dello Stato a fronte di eventuali debiti finanziari, probabilmente trasferirà la proprietà ad acque chete a chissà chi. Per cui al nostro caro dirigente Veltroni chiederei di non lasciarsi andare a sfoghi mediatici, perlomeno inopportuni, come paladino di un'operazione che gli hanno soffiato sotto il naso e per permettere la quale sono stati stanziati soldi pubblici quando il calcio nel sedere aveva già lasciato l'impronta. Antonio. Io non capisco perché in Italia debbano esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Io avrei voluto sentire nelle varie interviste fatte sia ai politici che ai lavoratori generici di Alitalia molta più autocritica. Nel senso che ormai, dopo tutti questi anni di privilegi, bisognava farsi un esame di coscienza e dire: fino adesso è andata bene, ma è giunta l'ora di rinunciare a qualcosa, perlomeno per il rispetto di altri lavoratori che privilegi ne hanno ben pochi, specialmente in questo periodo. Massimo. Scrivo dopo aver letto le notizie dell'accordo Alitalia. Credo che 3.250 esuberi non siano una vittoria per nessuno, né personale né collettiva. Credo che un paese, per essere democratico, abbia bisogno di un equilibrio fra i poteri, siano essi politici, economici. I governi degli ultimi 20 anni non possono esimersi, nessuno, dalle responsabilità gestionali e politiche di quanto accaduto ad Alitalia. Il nostro paese ha difetto di regole certe nel mercato del lavoro e le prove di forza, gli ultimatum, non sono esempi di democrazia. Bisogna aspettare a decantare le gesta di questo o quel politico, potente di turno, perché gli effetti si vedranno nel medio periodo. Vedi la crisi dei mutui statunitensi. La recente storia dei capitani coraggiosi dell'imprenditoria italiana non è proprio brillante. Corriere della Sera, Parmalat, BNL, Unipol, Telecom, eccetera. A proposito di quest'ultima, qualcuno si ricorda che ci sono circa 5.000 esuberi che sono in uscita entro il 2010 da questa azienda? Fabio. Ho 35 anni, sono un funzionario di banca, settore periodicamente e sistematicamente nell'occhio del ciclone. Tra i clienti della mia banca c'era anche un dipendente Alitalia, assistente di volo in tratte intercontinentali. Per me era un amico. Laureato, svolgeva e svolge tuttora anche un lavoro di collaborazione con l'Università di Roma, aggiungendo ulteriori introiti ai già sostanziosi stipendi Alitalia. Ebbene, spesso accadeva che l'amico, quando veniva in banca, ufficialmente fosse in malattia, descrivendo bellamente come questa fosse prassi diffusa nel suo ambiente di lavoro. Insomma, devo fare alcune commissioni, andare in banca, pagare il bollo dell'auto, portare lo scooter a fare il tagliando, quindi mi metto 3 giorni in malattia. Negli anni in cui subiva il fascino del sindacato, poi, una volta iscritto, sfruttava i permessi sindacali per dedicare tempo all'altro lavoro, con l'ulteriore vantaggio di accumulare numerosi giorni di riposo. Il paradosso all'italiano sta nel fatto che proprio questa persona sia tra quelle che hanno sempre scioperato e manifestato e che domenica scorsa era a Fiumicino, armato di megafono, per difendere i propri diritti e che oggi sia lì, a sbraitare contro tutti, a lamentarsi della proposta della CAI, offrendo addirittura alla RAI di entrare in casa propria per ottenere la massima visibilità. Incredibile. Lui, che da sempre ha sfruttato biecamente l'azienda all'Italia, è il primo a lamentarsi. Altri suoi colleghi, invece, sempre irreprensibili e attaccati seriamente all'azienda, invece di manifestare, pur avendone titolo, avrebbero già firmato l'accordo. Nel mio lavoro, ahimè, vedo tantissime aziende che, navigando in cattive acque, magari non per colpa loro, ma per le crisi di mercato, le provano tutte per rialzare la testa, temendo lo spettro del fallimento che molto spesso arriva. Un primo bilancio in perdita, un secondo. Al terzo non si arriva quasi mai. Se il mio amico, o ex amico, e ognuno dei 20.000 dipendenti che adesso stanno tremando facessero un esame di coscienza, forse ammetterebbero che è stata un po' anche colpa loro e, paradossalmente, capirebbero quanto sono stati fortunati perché la loro azienda, come qualsiasi altra, doveva fallire molti anni prima. Gianni Biella. Egregio direttore, la cosa più evidente in questo momento è che siamo più poveri. Non tanto come singoli cittadini o singole famiglie che si accorgono di non arrivare a fine mese. Cercando di semplificare, direi che i paesi del G8 complessivamente valgono 10-15 mila miliardi di dollari in meno. Viste le interrelazioni tra i paesi nel loro complesso, sistemi bancari e finanziari, pubblici e privati, assicurativi, produttivi, militari, mi viene da pensare che non sia un grande problema. In fondo tutto si può ridurre a giri contabili di poste patrimoniali che, con l'intervento degli stati nelle proprie economie, potrebbero evitare collassi ben più gravi. L'unico vero difetto sarebbe quello della ridistribuzione dell'influenza politica ed economica internazionale e nazionale. Perché chi risolve una crisi detta legge. Da soli non contiamo nulla. come individui ma anche come paese. E per questo motivo, limitiamoci a fare quello che sappiamo fare, cercando di farlo sempre meglio. Il resto non conta. Ilario. Il ministro Maroni forse è stato l'unico a dire le cose come stanno qua, nella provincia di Caserta. Il nostro territorio non è un pezzo dello Stato italiano. Qui comanda Gomorra, che controlla praticamente tutto, dall'economia alla spazzatura, passando dagli alimentari agli appalti e via dicendo. Lo sviluppo qui non ci sarà mai fino a quando comanderà Gomorra. È suo interesse mantenere un'economia povera, dove si può reclutare più facilmente manodopera criminale. Solo chi vive qui e vede certe storture può capire dove siamo arrivati, o meglio, dove il lassismo dello Stato ci ha portato. Perché se il governo centrale davvero lo volesse, spazzerebbe via la camorra in un batter di ciglia, con le buone o con le cattive. Nella zona di Aversa, e non solo, sono alcune settimane che la spazzatura non viene raccolta, e sapete perché? Perché dicono che le imprese che fanno la raccolta non pagano gli stipendi da mesi. Mi chiedo come possa una società vincere una gara di appalto per la raccolta della spazzatura e, pur non pagando i suoi dipendenti, restare ancora lì a fare quello che vuole. Nicola, da Aversa. Gentile direttore, durante la visita in Sardegna, Papa Benedetto XVI ha detto che il paese ha bisogno di una nuova classe dirigente di politici cattolici, rigorosi e competenti. L'appello del pontefice non è caduto nel vuoto, almeno per quanto mi riguarda. Sono impegnato politicamente, ho 41 anni e sono cattolico. Sulla competenza e sul rigore non sta a me giudicare. Oltre queste caratteristiche ho un però, che è tanto grande quanto comune per la mia generazione. Sono separato. Questa condizione mi pone fortemente in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa, almeno nella forma. Faccio la comunione clandestinamente, perché non potrei. Quando parlo di famiglia, lo faccio nella consapevolezza che i miei interlocutori hanno forti pregiudizi. Tuttavia sono credente e opero come tale nel rispetto di quei valori che da sempre hanno accompagnato il mio agire pubblico e privato. Eppure sento ostile la possibilità di aderire all'appello del Papa e non credo di essere il solo a provare questo disagio, perché la Chiesa fatica ad affrontare un problema importante, tende a sorvolare la realtà, che è fatta di numerose condizioni individuali che hanno prodotto una lacerazione profonda e che vengono vissute in silenzio. Vorrei rispondere all'appello del Papa per dire che ci sono anch'io, cattolico credente, che faccio attività pubblica e che credo sia possibile un cambiamento della vita politica incentrato su quei valori che Benedetto XVI ha richiamato. Ma la Chiesa non mi considera più tale, negandomi anche l'atto simbolico più rappresentativo della cristianità. Il dibattito sulle nuove forme di famiglia è lungi dall'essere maturo. Esistono ancora troppi vincoli che nel frattempo, però, pongono la mia generazione all'angolo, in attesa che i tempi delle riforme della Chiesa siano maturi per considerare la mia condizione di separato come possibile e non come estrema, tanto da farmi sentire confinato. Tuttavia la nostra vita è breve e perdere l'occasione di partecipare attivamente a un processo di rinnovamento, che sento tale sotto i comuni valori della cristianità, sarebbe un prezzo troppo alto da pagare. Luca Velletri. Luca, che dirle? Sottoscrivo in tutto la sua lettera, che pubblico senza alcun commento perché la trovo cristianamente bellissima e la devo ringraziare. Auguri. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.